in primo piano. È una giornata di rettifiche, di messe a punto e di rumorosi no, ma è anche una giornata di svolte storiche. Oggi i giornali aprono su una notizia che viene dagli Stati Uniti. Titolo di apertura del Corriere della Sera, Staminali, Obama cambia tutto. Niente limiti alla ricerca e fondi pubblici. Sono credente, ma la sofferenza va alleviata. E su questo argomento, su questa svolta, una delle svolte, diciamo, anche per fronteggiare la crisi, leggiamo dalla Stampa un commento di Maurizio Molinari, Obama tra scienza e crisi. Con la decisione di abolire i limiti al finanziamento pubblico della ricerca sulle cellule staminali, Barack Obama si propone di fare della scienza un motore della ripresa economica, sottolinea di opporsi a limitazioni politiche della ricerca e conferma la sua fede religiosa in bene comune che va oltre qualsiasi dogma. Il legame fra scienza ed economia è descritto dai volti di coloro che circondavano il presidente americano al momento della firma alla Casa Bianca dell'ordine esecutivo e del memorandum sull'integrità scientifica. Il biologo molecolare Peter Agar, Nobel per la chimica, Patricia Butt, inventrice dell'uso del laser per togliere la cataratta, Robert Horowitz, biologo dell'avanguardia nella ricerca sul cervello, Janet Rowley, la genetista che individuò nella traslocazione dei cromosomi la causa della leucemia, e Harold Varmus, Nobel per la medicina, scrive Maurizio Molinari. E vediamo ancora un seguito molto interessante. Sono cinque nomi nei quali l'America rispecchia quella capacità di inventare ciò che non possiamo immaginare, sulla quale Obama scommette per trasformare la scienza in un vettore di investimenti, ricchezza e posti di lavoro, individuando nella ricerca delle risposte alle malattie incurabili la frontiera più avanzata del sapere umano. È anche a tal fine che Obama assegna al passo sulle staminali un valore più ampio. Promuovere la scienza non significa solo garantire le risorse, ma anche proteggere la libertà di ricerca, impedire alla politica di ostacolare la ricerca, ha detto Obama al fine di sottolineare il distacco dalle scelte di un predecessore accusato di avere fatto prevalere le sue convinzioni ideologiche e religiose sulla necessità di sviluppare il sapere. E questa delle staminali sicuramente sarà una svolta storica di cui si parlerà ancora a lungo e dà subito la misura di come in America si sia entrati, diciamo così, decisamente in una maniera diretta e forte in quelle che sono le coordinate per fronteggiare una crisi globale dalle caratteristiche inquietanti per tutti, diversamente da come avviene nel nostro paese, dove un'altra strategia per fronteggiare la crisi è quella del nuovo piano casa. La strategia che arriverà in Consiglio dei Ministri venerdì e che sui giornali occupa spazi importanti nelle prime pagine. Per esempio, prendo da Repubblica, c'è una lettera appello di tre architetti, Gae Aulenti, Massimiliano Fuxas e Vittorio Gregotti. Gli architetti, è il titolo, fermiamo il cemento selvaggio. Le licenze facili e i permessi edilizi fai da te decretano la fine delle nostre malconce istituzioni. Il territorio, la città e l'architettura non dipendono da un'anarchia progettuale che non rispetta il contesto, al contrario dipendono dalla civiltà e dalle leggi della comunità. La proposta di liberalizzazione dell'edilizia annunciata dal presidente Berlusconi rischierebbe di compromettere in maniera definitiva il territorio. Ecco perché c'è bisogno di un sussulto civile delle coscienze di questo paese. I tre architetti lanciano un appello, una petizione che dalle pagine di Repubblica verrà allargata, diciamo così, ad alcuni quotidiani del gruppo Espresso. Ma sempre su questo tema, visto che la discussione è una discussione molto importante e soprattutto riguarderà il nostro paese, ci sono due servizi interessanti. Uno viene dal Giornale, che spiega nel dettaglio come funzionerà il nuovo piano casa, che ricordiamo è stato approvato ieri dalla Regione Veneto. E in questo nuovo piano casa sono previsti ampliamenti, ristrutturazioni e permessi. Una misura, è stato detto, per accelerare la ripresa edilizia. E su questo argomento prendiamo dal Foglio una interessante analisi di Stefano Cingolani. Il titolo è «Se il mercato mobiliare va giù, ecco gli immobili che vanno su». Leggiamo: «Si evocano le mani sulla città, ma bisognerebbe parlare di mani nelle tasche, perché il provvedimento sull'edilizia sembra ispirato alle analisi Censis e Banca d'Italia sul patrimonio degli italiani. Esiste una grande ricchezza, circa 9 volte il reddito più della media europea, che è per così dire pietrificata nella casa. Il Sole 24 Ore ha scritto che gli immobili milanesi valgono 317 miliardi, più della borsa, scesa a 272 miliardi. Pessimo segno di una piazza azionaria dominata dalle banche, dove si concentra l'epicentro della crisi. Ma quei palazzi sono una miniera d'oro che va tutelata e utilizzata. In Italia i valori immobiliari scendono poco, quasi niente, nelle grandi città. Evitare che crollino significa proteggere il risparmio e la ricchezza e scongiurare la deflazione. Sciogliendo i lacci per l'ampliamento dei fabbricati fino al 20%, l'abbattimento e la loro ricostruzione fino al 35% in più, il governo punta a questo. E nello stesso tempo muove un volano che può rimettere in circolo la rendita parassitario speculativa, come quella che, con la vendita dei grandi patrimoni pubblici, ha fatto nascere fortune sfacciate e fugaci, dai Ricucci ai Coppola, tanto per fare due esempi. In più non va trascurato che far ripartire le costruzioni, consolidando e migliorando l'esistente, porta un bel gruzzolo nelle casse del fisco e sostiene un gettito IVA depresso dalla recessione. Una colata di cemento, dunque, si chiede Cingolani, piuttosto tegole e mattoncini. È questo uno degli argomenti sui quali si discute, e si discute parecchio sui giornali, con commenti, con interviste e con interventi. E è uno degli argomenti anche di acceso scontro politico, perché da una parte, mentre si propone questa variante edilizia e urbanistica, si torna a parlare anche della sinistra del no. La sinistra che dice no e che si oppone. E su questo leggiamo un commento da Repubblica di Michele Serra. Lo stuolo di portavoce del governo nel rosario quotidiano dei telegiornali spende spesso e volentieri la definizione sinistra del no, molto trendy, anche su svariati quotidiani. Nel mazzo sfiorito di questi no seriali, che sarebbero la prova provata della sterilità intellettuale dell'opposizione, sono finite anche le dure critiche al cosiddetto piano casa, che a una parte consistente dell'opinione pubblica appare come la deregulation della già sregolatissima cultura edilizia di uno dei paesi più mal cementati del mondo. E proprio su come affrontare i nodi della ripresa, una analisi molto importante ci viene fatta sul Corriere della Sera da Michele Salvati. Il titolo: La notte del mercato, i rischi dello statalismo, affronta un'altra questione molto delicata e che riguarda l'interventismo dello Stato. Si è visto e si vede già la discussione aperta da queste misure proposte dal Premier Berlusconi, ma si parla anche di qualcosa d'altro, si parla proprio di intervento nello Stato anche nella gestione delle banche. Salvati scrive questo: «Nell'ottobre scorso concludevo un editoriale sulla crisi economica con la famosa risposta della sentinella nella profezia di Isaia a chi domandava quanto sarebbe durata la notte. Verrà il mattino, ma è ancora notte. Se volete domandare, tornate un'altra volta. Se tornassimo a domandare oggi, otterremmo la stessa risposta. Anzi, la notte della recessione si è fatta ancora più profonda e il mattino della ripresa è sempre lontano. Sono però passati 5 mesi da allora e comprendiamo un po' meglio in quale notte siamo immersi, fuori di metafora, quali siano la gravità d'origine e la natura di questa recessione. A questo punto si incontrano però preoccupazioni crescenti di statalismo espresse da varie forze politiche e da numerosi commentatori di fronte ai massicci interventi del settore pubblico in tutti i paesi, in alcuni casi a vere e proprie nazionalizzazioni. Sono preoccupazioni compatibili e comprensibili, ma vanno qualificate. Si può discutere dell'opportunità o dell'efficacia di singole misure di intervento, ma si deve riconoscere che esse sono dettate da ragioni di emergenza e non da una improvvisa conversione di liberisti conclamati ad una filosofia statalista. I rischi dello statalismo e la notte del mercato affrontano i temi che riguardano proprio, dicevamo prima, questo interventismo e questa decisa politica, diciamo così, che può sembrare statalista. Una politica che apre comunque anche delle fratture, delle divergenze e apre delle nuove questioni. Per esempio, abbiamo parlato prima del tema casa e proprio sul tema casa la Padania oggi dedica il titolo di apertura alla presa di posizione del proprio leader Umberto Bossi. Casa e lavoro è il titolo, la priorità ai nostri. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che ieri alla trasmissione di Gad Lerner Umberto Bossi ha espresso una preoccupazione ben sintetizzata dal titolo di apertura della Stampa di Torino. Il lavoro prima agli italiani è il titolo. Bossi pone il problema e il commento interessante di Giuseppe Berta ha questo titolo: noi e loro. Ciò che ieri Umberto Bossi ha detto a Gad Lerner, sostenendo che nell'assegnazione di posti di lavoro e di abitazioni la preferenza deve essere accordata agli italiani, segna indubitabilmente un passaggio nella percezione della crisi e delle sue ricadute sociali. Per la prima volta un rappresentante di governo sancisce che sono i tempi difficili a imporre di discriminare fra i cittadini italiani e gli altri. Bossi, naturalmente, interpreta una reazione immediata, più ancora che un diffuso senso comune di fronte alla crisi. Quando la recessione incomincia a mordere davvero, il primo istinto è quello di fare quadrato, impedendo che la propria posizione sociale ed economica sia messa a rischio da forze esterne. Da questo tema, da questi temi molto, molto importanti, decisivi anche per la ripresa, passiamo a un altro argomento. Un altro argomento che è il titolo di apertura del giornale. Interessante, interessante per tutti. Pronta la classifica dei migliori ospedali. È una notizia che non ho trovato sulle altre pagine. Il Ministero prepara la prima lista ufficiale. Il sottosegretario Fazio dichiara: è ora di selezionare le eccellenze. E il giornale pubblica a pagina 8 l'elenco degli ospedali migliori d'Italia. È una ricerca effettuata all'Università Bocconi, è un rapporto dettagliato. Elenco queste eccellenze città per città, sono poche. A Roma è segnalato l'ospedale pediatrico Bambin Gesù e il Policlinico Gemelli, a Genova l'Istituto Gaslini, a Pisa l'azienda ospedaliera Pisana, a Verona l'azienda ospedaliera di Verona, a Bologna il Sant'Orsola, a Pavia il Policlinico San Matteo, a Milano il San Raffaele, l'Istituto Europeo di Oncologia e l'Istituto Nazionale dei Tumori, a Padova l'azienda ospedaliera di Padova, a Foggia la Casa Sollievo della Sofferenza, a Bologna ancora il Rizzoli, a Roma il Policlinico Umberto I, a Siena l'azienda ospedaliera Senese e a Firenze l'azienda ospedaliera Careggi. Questo è un rapporto sulla sanità d'eccellenza in Italia. La sanità in Italia rappresenta ancora un punto molto qualificante e soprattutto le statistiche mondiali danno alla sanità grande rilievo. Probabilmente anche nella sanità servirà fare molta attenzione nei prossimi mesi, perché proprio da quel settore potrebbero esserci anche lì indicazioni importanti legate alla ripresa. Arriviamo velocemente verso la conclusione con una notizia di cronaca che oggi hanno molti giornali, e si tratta dell'assurda tragedia avvenuta a Torino, dove padre e figlia sono stati accoltellati in strada. L'omicida era seguito dai servizi psichiatrici e ieri mattina, in preda al delirio, aveva chiesto aiuto ai carabinieri. Leggiamo un commento, una lettera aperta presa dal Giorno e dal Resto del Carlino, firmata da Achille Scalabrin. Regolarmente in cura presso i servizi psichiatrici torinesi, regolarmente accompagnato al pronto soccorso per un consulto quando manifesta segni di squilibrio mentale. Tra la tragedia e Antonio Olivieri sembra non esserci traccia di quel disinteresse che a volte sfocia in una scia di sangue. L'uomo che ha soppresso la vita di Lorenzo Vollati e martoriato la figlia Giorgia, secondo le prime notizie, appartiene piuttosto alla normalità, intesa come quella fetta sempre maggiore di popolazione che disattamento, ansia, stress consegnano ai territori della labilità mentale. Anche lui sembra sia da iscrivere al partito delle persone riservate che poco parlano e poco socializzano con i vicini di casa e che un giorno liberano i loro fantasmi con un colpo di pistola o una coltellata. Rapidamente, in conclusione, una notizia curiosa, la prendiamo anche oggi dal Secolo di Genova. Ceneri nel mare di Rapallo, ultimo sogno dei milanesi. Il comune rivierasco consente la dispersione dei resti dei defunti anche nelle acque del Tiguglio e dal capoluogo lombardo arrivano tante richieste di informazioni. Unico obbligo: usare urne biodegradabili. Non è una grande notizia, è semplicemente una curiosità. Quel mare, scrive Silvia Pedemonte, tanto sognato nelle giornate scandite dai ritmi frenetici della metropoli, tutto lavoro, code in tangenziale, alla fine quel mare diventa anche una culla finale, perché non abbandonarsi a quelle onde facendosi trasportare dalla risacca per l'eternità. Dicevamo, non è una grande notizia, non è una notizia che porta sicuramente allegria. La notizia sulla quale ci concentriamo proprio per dare l'augurio finale è quella calcistica di questa sera, dell'evento a prima delle sfide tra la Juventus e il Chelsea. Auguri alla squadra bianconera.